100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Mentre la politica riesce a trovare un'intesa, e vedremo quanto solida, sul Jobs Act, la riforma del lavoro, a preoccupare sono ancora i temi legati alla fragilità dell'economia, non solo quella italiana, che però purtroppo è quella che in questa fase sta soffrendo di più. Oggi in Australia si apre il vertice del G20, cioè il vertice dei paesi più industrializzati, e sarà proprio l'Europa ad essere sul banco degli imputati, accusata di non saper crescere. E d'altra parte anche i dati diffusi ieri dalla Banca Centrale Europea indicano un rallentamento dell'economia nei prossimi 3 anni e soprattutto dicono che la disoccupazione resterà almeno fino al 2019 praticamente ai livelli attuali, che sono livelli molto elevati. Ieri l'agenzia di rating Standard & Poor's ha addirittura ventilato il rischio che l'Italia possa nuovamente entrare in recessione, e sarebbe la terza nel giro di 5 anni. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha puntato l'indice contro l'Eurozona, che vede le sue 3 maggiori economie, la Germania, la Francia e anche l'Italia, come sappiamo, tutte in evidente difficoltà. Allora, visti i dati, colpiscono la tranquillità e la calma con cui l'Europa sta affrontando le sue sventure economiche, come se stesse aspettando un aiuto divino, che però non arriverà, perché l'Europa o cambia o trova il coraggio di puntare davvero sulla crescita, oppure il vecchio continente si condanna a un ruolo di secondo piano rispetto ai grandi dell'economia mondiale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Proviamo a fare il punto sul Jobs Act. La legge delega è oggi in discussione alla Camera, dopo aver avuto un sofferto sì al Senato. Prevede, tra molte altre cose, l'istituzione di una nuova forma di ingresso al lavoro, i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. È la parte più innovativa e più simbolica di questa riforma. Significa che con l'aumentare dell'anzianità aziendale aumenta anche la buonuscita in caso di licenziamento e aumentano anche le protezioni previste dalla legge, tra cui anche il celebre articolo 18 che prevede il reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. La riforma Poletti limita questo reintegro ai casi di licenziamento discriminatorio e disciplinare e la esclude per i licenziamenti per motivi economici. Ora la Camera, sotto la spinta della minoranza del PD, chiede di specificare meglio le fattispecie dei licenziamenti disciplinari a cui è possibile applicare l'articolo 18. Il testo quindi dovrà tornare al Senato per un'ulteriore votazione. Al Senato ricordiamo che la maggioranza di Renzi è un po' più ballerina. L'importante è che la riforma non vada stravolta, è fondamentale, è urgente ed è la miglior credenziale che ha l'Italia per dimostrare al mondo che qualcosa sta veramente cambiando nel nostro paese. Bisogna evitare il va e vieni tra Camera e Senato, che toglie ogni certezza sull'attuazione reale della riforma, e bisogna anche evitare che questa stessa riforma diventi l'ennesimo prologo di una stagione infinita di contenziosi davanti al giudice, come è stato finora nelle materie che riguardano il lavoro. Troppo spesso, infatti, l'Italia è stata sì una Repubblica fondata sul lavoro, ma sul lavoro dei giudici.